non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina ai piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come gli zii bigotti, una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino, milioni di piccoli borghesi come milioni di porci pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti, tra case coloniali scrostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. Proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. E solo perché sei cattolica, non puoi pensare che il tuo male è tutto il male, colpa di ogni male. Sprofonda in questo tuo bel mare. Libera il mondo. Abbiamo iniziato così, belli positivi, ottimisti. Alina ha smesso di scolinzolare. Era Gassman che leggeva una famosa poesia di Pasolini, alla mia nazione, si intitolava. C'è in radio, ci piacciono gli animali. Chi c'è in radio, Gianni? Gianni Valeriani, il Livio. Fantastico. Ci abbiamo anche Star Bracciola. Chiaramente Fede. Dai a tutti. Un saluto a tutti, veramente. La Bina Tremens questa sera, visto che il topo è disperso. Non siamo riusciti a contattarlo. Lo chiamiamo. Non c'è stato verso, abbiamo chiesto anche a Pio Pompa, ma non è stato in grado. Un inizio, così ricominciamo, dai, un inizio scoppiettante per la Bina Tremens. Salutiamo tutti gli animali. Assolutamente. Animali, tutti. Animali detersivi e catacloni. Ci sparacchiamo questo buscaglione strumentale. Fantastico, veramente gran bella musica per i nostri ascoltatori. E felice di essere venuto al mondo, come penso in redazione e da tutte le altre parti. Io prima ero all'Arci, saluto gli amici dell'Arci. Ah, quelli non del Millennium. Appuntamenti, ci vado, c'è la radio, si ascolta. Quelli del Millennium? Del Millennium, sì. Sì, sì, famoso Arci Millennium. Arci Millennium, dove sono andato c'erano centinaia di persone anche lì. Centinaia e centinaia di persone che non potevano entrare. Esatto, insomma. Perché era un Arci. Dai giornali della mattina e del caffè, del benvenuto delle 7.30. Giusto. Guai stando seduti. Direi più che altro ieri il benvenuto delle 12.42, quando hanno ammazzato il colonnello. Queste sono cose che succedono, Fede, non dipendono. Sono da noi. Brutti momenti, Sì, ma non. Ma noi vogliamo consigliare, no, non dipende da noi, per carità. Noi vorremmo consigliare a tutti quelli che hanno messo in prima pagina le foto del mostro una cosa molto semplice. Se non altro ci avete rovinato il pranzo, comunque. Bevete più latte, dolce italiano, rimedio sovrano per tutte le età. Bevete più latte, bevete più latte. Salutiamo tutti i lattai a sto punto. Esatto. Bevete più latte. Quanti tipi di latte si vendono in Italia, chissà? Guarda, non saprei dirtelo. Una volta ti ricordi che abbiamo fatto una gran recensione sui latte, sui latte. Detto che c'era anche il latte d'asino che serviva per il caldo. C'era anche il latte più, ti ricordi? Il latte più. Cazzo, buono. Il milkshake milk per noi. C'era il frappè. Tutte quelle cose che. C'era il frappè di panda. Come antiterroristi e comandanti di varie sezioni. Esatto. Segrete no della vita italiana. Quanti latte, quanti latte. PLPT, il famoso partito più latte per tutti, ti ricordi? Esatto. Una loggia, una frangia deviata di quella loggia massonica, mi ricordo. Oh, quante cose sono successe, caro Fede, nei nostri anni, nei nostri begli anni. Quanti distintivi abbiamo preso e mostrato, e quante pistole sono scattate immediatamente insieme alla nostra. Siamo veramente buoni, li snidiamo ovunque. Insomma, c'è un solo modo. Radio Città Fuggico 103.1 da Bologna, in via Gian Bologna 4. Da noi si festeggia il mondo. E questa mi sembra... Un saluto a tutti i nostri parenti, ma anche a tutti i bersaglieri, direi, dopo questo pezzo. Che male c'è essere buoni? Bevete più latte! Ricordiamo che questa canzone è la colonna sonora di un film che era un film Boccaccio 70. Boccaccio 70. In questo episodio ci stava una gigantesca Anita Ekberg che usciva fuori da uno spot pubblicitario e incarnava tutto il bene possibile a rivederlo oggi. Una volta invece che raggirava con tutta la sua procacità sessuale un Peppino De Filippo che faceva invece il cristiano bigotto democristiano, eccetera. Noi cominciamo adesso a farvi un po' scaldare con un classicone. Gianni, prego, chi era the King of Funk? Abbiamo The King of Rock, che è Elvis Presley, The King of Pop, che è Michael Jackson, and The King of Funk, che è... Chi è? Lo mettiamo? Yeah Brother. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, sugar and spice. Sempre dall'Emilia Romagna. comunque dai, diciamo che questo è Smetto Quando Voglio, va là. Mettiamo quello che ci pare. Esattamente, qua questa è la trasmissione è fatta intorno a te. Intanto vi scaldiamo. No, ci hanno chiesto di diventare la trasmissione ufficiale della Casa delle Libertà, anche perché noi facciamo un po' come cazzo ci pare, quindi. Trasmettiamo sui 103 e 100, siamo a Bologna. Parlatene tutti di noi. Parlatene. Ascoltatene. Ditene. Ascoltatene. Ascoltatene. Abbeveratevi. Abbeveriamoci. Chiaramente siamo su Faccia Libero, ma se volete potete anche mandarci un messaggio al 333-1809494, sia chiaro. Potete anche chiamare in diretta. Allo 051 24 24 39. Non so se vi risponderemo, ma è lo stesso. Questo pezzo di Rolling Stones spacca. Bravi Rolling Stones, eh. Hanno fatto storia. Non lo dico solo io. Questi non sono Rolling Stones, Gianni. No, riproduci. Allora, adesso entriamo in un ambito decisamente più trash. In uno dei dischi che ho trovato la scorsa settimana per Mercatini, ho trovato anche un gran pezzo. A Gianni, senti qua. Allora, questo pezzo qua, pensa, viene da... C'è proprio scritto, da Dream, che probabilmente era una trasmissione televisiva dei tempi. Gli autori sono Ciorciolini, Minellono e la Highlander Bon Compagni, sempre presente in quel periodo. Sì, ma mi ricordo. Orchestra diretta dal maestro Ormi. Cantano i block, ma che i blockbuster del cinema italiano degli anni 70. Nessuno se lo riusciva a spiegare. C'avevamo i più grandi registi di tutto il mondo negli anni 70. Ecco perché. In Italia, appena loro due facevano un film, lo andava a vedere tutta Italia. Un po' come succede adesso con Cinepanettoni, no? Un po' prima. Un po' prima di Bud Spencer. Io mi una grande coppia di artisti. Sporca. Una grande coppia di artisti. Quella che passa alla radio. No, ancora un po' più trash, canzone. Più trash. Una coppia più trash di Gogli e Renato. I gatti di Vicolo Miracoli, erano più di quattro. Chi? Tom e Jerry. No, più che trash. Sono da più trash. Più trash ancora, anche se hanno collaborato con artisti molto importanti. Gianni Pinotto. No, italiani. Dai, Gianni Pinotto, cazzo. Architetto. Gianni e Pinotto, ma italiani, che cazzo dici? Cazzo, lo possiamo dire, no? È tardi. Gianluca, cazzo, quando c'è. Dai. Franco Franchi e Cicci Ingrassia, e mi pareva strano. Così, noi più simpatici di Radio Città Fuggico a quest'ora. E mi pareva strano, e gli pareva strano, e ci pareva strano, ma strano. fosse tutto giusto, che fosse tutto a posto, che non ci fosse un guasto o qualcosa che non va. La star girava un film, la crema sul bignè, e lo notai così, che guardava proprio me. A quel mio non so che, e invece avevi il biglietto col prezzo sul gilet, e mi pareva strano, e gli pareva strano, e ci pareva strano, ma strano, strano, strano, che fosse un gran successo, che capitasse adesso, che mi piovesse addosso questa mia celebrità. C'era una scena blu, le luci e la TV. Chi ha quanti ricordi, eh? E tanta gente che si sbracciava intorno a me. Di aver incontrato un altro asso della realtà. Credevo fosse il mio sguardo di fuoco. Chi? A farli impazzire. A un signore che si divertiva. E invece era che tu non dovevi stare lì. E mi pareva strano. E mi pareva strano. E ci pareva strano. Che con una mano strano, chiamava le squadre. E mi pareva mica strano. Di Serie A, eh? E mi pareva e anche strano. Di Serie B. Cine di Serie C, ma strano dell'NBA. E ci pareva strano, strano, strano, strano. Valeriani con una mano da Radio Città Fuggico. E mo' beccatevi questa, eh. A fare la rivoluzione, a portare in piazza un botto di persone. Voglio fare fuori Repubblica, ma non nel senso del giornale, no, no, nel senso del giornale. Brucerò le macchine lungo la via, non tre o quattro punti, ma tutta la via. Seguimi la vitola, il momento, dai, mettiti il cappuccio e vai. Tira giù sto cappuccio. Black block, come un black block, col cappuccio in testa ed il compasso marcerò. Black block, come un black block, il sistema sfascerò. Lo sfasciamo sto sistema. Odio la finanza che mi manda via, ce l'ho col ministro dell'economia. Prenderò le banche e le distruggerò, ma quella di Verdini no. No, quella di Verdini no. Non mi faccio prendere dalle guardie mai. Il rinvio a giudizio è per Piersi che vai. Glielo avevo detto tutto ciò che è mio. Figlio mio, un giorno tutto questo sarà tuo. Facciamo la rivoluzione vera. E siamo fuori il palazzo di giustizia di Milano, assediamo Repubblica e cose di questo genere. A lei la fanno a fettine sottili come la bresaola diventa una cosa doppia. Black block, black. Passo marcerò, black block, come un black block. Io li amo. Il sistema sfascerò. Semplicemente li amo. Il sistema sfascerò. Oramai l'Italia, per poter dire le cose sfascerò come stanno, bisogna raccontarle in musica. Francesca Fornaro e Simone Salis, siete due principi. Direi che puoi andare, Sobracciola. Puoi andare. Vai. 1988, Joanna Gimme Hope, parla di apartheid questa canzone. She runs in Durban and the tea runs fall. She makes a few of her people happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a system they call apartheid. questa di che anno è? Non... 1988, calcola che questo è stato l'unico anno in cui sono andato in vacanza in un villaggio magari. Cazzo, io compivo 18 anni e andai a fare una vacanza in Jugoslavia l'anno prima che venisse frammentata. Andai con 300.000 lire in 50.000 falsi e stemmo da re per 2 settimane. Stavo a Sibari in Calabria e ho fatto 10 anni. Onesto. Bello, bello, Lusso in Piccolo, mi ricordo, si chiamava il paese. Tanto mare, tanto pesce. Non si trovavano droghe. Ragazzi, nel comunismo, neanche nei paesi sotelli si trovavi droga. Vino, dai, vino. Un pezzo pieno di speranza. Io purtroppo ho fatto la cazzata di mangiare una mentina e Sor Bracciola, che è abituato a vivere in ambienti fumosi e maleodoranti, mi ha detto che praticamente faccio abbastanza vomitare con questa fantastica, meravigliosa alitella, e quindi è una cosa mia, mi dà fastidio l'odore di gomma da masticare. Bene, allora io ti auguro di provare presto l'alito di questi ragazzi. Shit, man, them peachy black gangsters are at it again. I wonder who they fucked up today. You motherfucker! Got him. Say goddamn they ruthless. Everywhere we go they say damn. NWA's fucking up the program. And then you realize we don't care. We don't just say no, we're too busy saying yeah. About drinking straight out the 8 bottle. Do I look like a motherfucking role model to a kid looking up to me? Life ain't nothing but bitch. Questa roba che non deve essere molto posteriore al tuo Gimme Hope, eh? I'm a foot in your ass. See, I don't give a fuck cause I keep belling. Yo, what the fuck are they yelling? Hoping you sophisticated motherfuckers hear what I have to say. When me and my posse stepped in. Comunque, sì, dai. Cosa dice Gianni? Ma non moderna, cioè acciaio, vetro, luci. Ci pensava. Pensa, pensa. Adesso lo sta facendo. Adesso hanno acceso le luci dell'esperienza. Io sono veramente contento. Nella città dove vivo, a volte vedevo uno o due aerei, adesso ne vedo decine, me li vedo proprio sopra la testa, bellissimo, arrivano tante di quelle persone, o mica le contatto solo io. Taking niggas out with the flurry of buckshots. Boom, boom, boom, yeah, I was gunning. And then you look. Io come persona gentile, come io ho detto, e come due nemici di polizia, ma due persone intelligentissime, hanno detto di la bontà e noi ti siamo dietro. Bontà. W.A.'s one and four homicide, cause I'm the type of nigga that's built to last. Fuck with me, I put my foot in your ass. See, I don't give a fuck cause I keep belling, belling. Yo, what the fuck are they yelling? Sicilia, questa è la mandara di questo. La un cane poliziotto. Ma dove a costei care a mia Kamala Benaro? Quindi dice una cosa incredibile. Oh, mi puoi vedere quanto mi puoi allungare la lingua. Ma va sicuro? Non sogno l'ecco culo, questo è veramente importante. Bitches in the biker shorts, we didn't get no play. Alla radio pour passer comprendre. Pour raconter qu'est-ce que nous a fait. Pour amener de la musique et que des autres ont fait. Et donc, justement que nous savons canter et jouer avec les instruments. I'm going to go to the house.